CFD Production presenta. Un prodotto ideato e condotto da Frego, Diego e Dennis. Musica, informazione, curiosità e molto di più. E60, l'informazione divertita. Questo Crazy Train che ci accompagna questa sera qui su Radio Sanonà 102.200, la frequenza, l'informazione divertita. Abbiamo questa sera con le mie bellissime croci solite Dennis e Diego. Buonasera. Eccoli qua, i due grandissimi, imperdibili rompicoglioni. Eccoci qua, anche questa sera per sfracassarvi quello. Agitare un po' alla Rendo Agro, perché grande orchestra italiana, salutiamo l'orchestra italiana. Sempre un terrone, sei, sempre un terrone, chi se ne fotte. Dai subito i dati, come scovarsi, che non abbiamo tempo da perdere. Prima di tutto voglio dare il benvenuto naturalmente agli ascoltatori a casa e benvenuti a tutti quanti, cari amici ascoltatori di questa sera, mezzogiorno, mattina, pranzo, cena. E benvenuti a 360, l'informazione divertita. E niente, i miei collaboratori Gino e Michele mi hanno presentato. Buonasera. Mi hanno presentato, naturalmente, seriamente, Michele. Assolutamente seriamente, un grandissimo grazie al nostro regista, Frego, grazie. Registra. Grazie, registra. Il nostro registra. Ho detto registra, bellissima però. Bella, sì. Perché lui registra anche, naturalmente. No, bella, bella. Scusa, registra, bella, non si può dire che non registri. Sta registrando nel computerone lì. Eccolo schifoso. Lì. Dove scopri? Il computerone è schifoso. Schifoso. Povero, il computer è vecchio, non è schifoso. Se non ci fosse il computer non ci saremmo neanche noi. Dove scovarci? Radio Sandonà 102 200 0421 560993, il telefono quarto finale per il Fox. Ci trovate su www.radiosandonà.it. Non so, ci sono un po' di V, di solito sono tre. Passo la parola al Diego. Dunque, per gli SMS 348 41 62 771, Facebook DFD Team 360 in parole, e mail dfd360@ Yahoo.it. Allora, quando sei bravo, questa sera, bravo, naturalmente, prima di procedere, alla bellissima musicanza che avanzerà fra un poco, abbiamo questa sera degli ospiti assolutamente incredibili. Siamo veramente fieri di avere questi ospiti. Che sono? Chi sono, Diego? Intanto mi sono già antipatici perché mi hanno finito l'acqua. Comunque, Non si finisce l'acqua di fogna di Diego. Sono dei golosoni. Loro sono i Burning Black. Ho the phone only for you. Buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91 76 55 barra UTI, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionale di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma? Oh, cagher. Ebbene, come avete capito... Oggi comincia la nostra nuova rubrica che si intitola Le vie del Signore sono finite. Dennis, dove sono finite? Le vie del Signore oggi sono finite a Bastardo. No, si chiama così, è la città. Ridente località della cittadina nella provincia di... Nella provincia di Perugia. Perugia, sì, sì. Ci hanno dato le informazioni in diretta. Naturalmente io sono collegato via satellite con Asdrubale Kopasdik, che è il nostro responsabile del traffico urbano, interurbano e spaziale. Abbiamo pure... teniamo pure il traffico spaziale. Sarà un bastardo. Anche sarà un bastardo. E c'è pure un sacco di monnezza. Ma chi è? Quello del... No, Otacek, lì, quello del traffico. Diego, insomma, come ci arriviamo a questo bastardo, Giano dell'Umbria, eccetera, eccetera? Dunque, partenza da San Donà di Piave Centro, uscire a San Donà di Piave. A4 Venezia Trieste, San Donà di Piave, ritirare il biglietto. Attenzione, presenza di cacche sulla strada. Seguire la direzione Venezia Est, pedaggio 2,50 euro. Aia, mi ha dato un pedaggio nel culo. Seguire la direzione Milano, prendere l'uscita in direzione Venezia. Milano che vanno, Comunque prendere la A57 e visualizzare la mappa. Mi raccomando, se avete una mappa o qualcosa, visualizzatela. Allora, diciamo agli ascoltatori, visualizzate la mappa. State visualizzando la mappa? La visualizzate? Perfetto, bravi, bravissimi. Continuare lungo la A4 Venezia Mestre. Al chilometro 42, presenza di vacche sulla carreggiata direzione sud. Io non capisco qui tu che cosa hai scritto. Scusa, c'è scritto A13 Bologna Padova zona industriale interporto. Cioè, esatto, c'è scritto, basta che leggi. Esatto. Zona Padova interporto, in prossimità a Padova, continuare sulla A13, hai capito? Ok. Poi continui sulla A13, vai giù verso Ferrara, viadotto fiume Po. Basta che leggi, seguire la cioè, sì, A14 ancora Bologna San Lazzaro. San Lazzaro è lo svincolo, no? Diciamo agli ascoltatori, a Bologna c'è una grande città, ci sono gli svincoli, si prende lo svincolo, giusto? Ecco. Poi in prossimità di Bologna continuare sulla A14 e 45, no? Hai capito? Sì, bene. E quindi? E quindi stai guidando oltre 2 ore. Fai una pausa, sterco cilindrico. Okay. Poi mi vai fuori strada e mi sbatti sulle colonnine. Parlaci un po' di bastardo. Ma vi parlo un po' di bastardo. Bastardo è una frazione a 290 metri Solme, che penso sia salame, e si è sviluppata soprattutto nel dopoguerra ed ora rappresenta la zona più abitata. Potrebbe anche essere, scusa, sopra la merda. o anche un po' come Diego, sotto la media, diciamo. SLM sotto la media. Esatto, giusto. Scusate, no? Allora, rappresenta la zona più abitata della Terra. No, c'è un errore, scusate, ho sbagliato. Come si fa a fare radio così? Ma secondo il censimento del Istat del 2001, conta 1549 residenti. Uno tra parentesi quadra. C'è scritto così, uno tra parentesi quadra. Esatto. Diego, vai con la storia dell'affresco. Bello. Dai. Ebbene sì, affresco recante il nome della località, Bastardo. Che mi viene da ridere. È un bastardo, anche bello affresco. Sì. Cioè, è appena arrivato. Il nome originario è Osteria del Bastardo. Era dovuto agli incerti natali del gestore di un'antica stazione di posta lungo la via Flaminia. Ma non era bastardo perché faceva pagare tanti clienti? Non lo so. Negli anni 20 è stato abbreviato nella curiosità forma odierna. Già nel 1933, comunque, si cominciò a sentire l'esigenza di modificare il nome del paese. Tra quelli proposti anche in anni successivi, Villa Romana. No, non mi piace. Neanche a me. Perché? Perché no? Perché non è. Ascolta una cosa, come si chiamano gli abitanti di Bastardo? Bastardi? Bastardini? No, poveri. No, un saluto, dai. Scusiamo tutti i bastardi. No, ma no, dai, un saluto naturalmente agli abitanti di Bastardo. Ciao a tutti, fate ciao con la manina, anche con la voce. Ciao! Ciao, ciao a tutti. E vediamo bastardi! Ciao bastardi! Strip. I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. mark, cause it's never been beat, and we never miss yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around. Siamo anche questa notte, sera, mattina, mezzogiorno, pranzo, cena e anche Marendin. Cari amici della notte, mattina, mezzogiorno, sera, pranzo, cena e colazione anche Marendin. Radio Sandonà, naturalmente, cari amici. Per chi è ancora sveglio, per chi sta guardando la TV, per chi sta dormendo o per chi si fa un bidet, per chi non ha voglia, è peggio per lui, o non può dormire, mangiare, camminare o farsi il bidet, per chi vuole saperne di più. Questa sera notte vi sono di pranzo cena dei Burning Black. Woo! Ciao, ciao. Ossia dei carissimi signori Luca, detto Will. Ciao, ciao. Luca. Enrico, detto Eric, senza ciao, K. Ragazzi. Senza K. Will con due L, naturalmente. E Alessandro, detto AJ. Come si scrive? Si dice. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Buonasera. Scusate un attimo, andate subito di là e prendetemi l'acqua di nuovo. Boh. Basta. Luca, qui vai. Se no l'intervista è chiusa. No, no, no, no. Diamo il benvenuto naturalmente ai nostri amici. Diamo il benvenuto ai nostri amici, naturalmente. Benvenuti in radio. Sono amici naturalmente di tutti. Sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida scout. Questo faceva parte della legge. Avete mai fatto gli scout? Sì, naturalmente sì, l'abbiamo fatti. Ah, davvero? Sì, sì, sì. Luca in particolare è Luca sempre in particolare stato il nostro scout personale. Ecco, adesso chiedo a Luca il primo articolo della legge degli esploratori. Ha rifiutato il microfono. Sono vietati gli insulti, però. Sì, sì. Sono vietati gli insulti. Bene, siete emozionati? Siete nervosi? Signor, sì, signore, come Full Metal Jacket, lei è emozionato e nervoso? Emozionatissimo, poi la presenza di Diego dà sempre che di autorevolezza alla situazione. Bene, esatto. Sono contento, a me fa un po' schifo avere Diego accanto in questo momento, però se per voi anche è un piacere... È sempre un piacere. Benissimo. E non è la prima volta che ce l'abbiamo a stretto contatto. A stretto contatto. Beh, si sa che comunque Diego offre sempre parte del suo corpo e... Solo parte? Molte parti del corpo e quindi... No, io mi concedo tutto o niente. Bravo Diego. E qui abbiamo tre esponenti che comunque possiamo anche cominciare con le domande un po' più serie, direi, anche perché il tempo stringe. Diciamo un attimo quali sono i vostri progetti, intanto che musica fate, dateci un attimo un po' di indicazioni di... Oh, ma chi cazzo sei? Cioè, ci vuoi dire un attimo, piacere? Cioè, oppure no? Spieghiamo anche ai nostri utenti, scusate, ai nostri amici, non sono ancora utenti perché li abbiamo ancora fregati. Prego. Grazie ragazzi, allora cerchiamo di dare una definizione del genere che facciamo, forse è un po' articolata, però cerchiamo di spiegarla al meglio possibile. Noi facciamo heavy metal con influenze heavy metal e anche dentro un po' di heavy metal. Insomma, abbastanza varia. Sì, mi dicevano sì. Che facevate heavy io. Sì, sì, ma più heavy metal che heavy metal. Ah. Comunque heavy metal. Ah, boh. O every metal, come dicono tanti. Io pensavo faceste liscio, comunque va bene. Ci ho rimasto male, ero venuto qua per il liscio. Infatti, non era il gruppo che aveva Luca prima di noi. Infatti, ero convinto facevo che fosse... Liscio Death, esattamente. Ah, Liscio Death, ok. E infatti ero convinto che fosse Castellina Pasi, no? No, Castellina Pasi ce l'abbiamo fra qualche puntata. Ah, ok, perfetto. Sì, comunque benissimo. Abbiamo intenzione di includere all'interno della band anche una fisarmonica, proprio per cercare di emulare al meglio Castellina Pasi. È uno dei nostri... una delle nostre band ispiratrici, sì, sì. Naturalmente diciamo anche agli ascoltatori quali sono i vostri ruoli all'interno del gruppo, quindi quale strumento naturalmente suonate, quale, so, il cimbali per esempio, il mandolino, il sitar, non lo so. Bello il sitar, ci devo fare un pensierino. Allora, io e AJ suono il basso. Io Eric suono la chitarra, solista. Che bello che sei solista. Io Will suono la batteria. Bene. Ha sottolineato il nostro caro Eric, ha sottolineato chitarra solista, mi raccomando, no, perché... Ma allora vogliamo sentire un attimo questi tre baldi giovani che... Sentiamoli. Sono una rappresentativa, come suonano questi strumenti? Allora, vai. Via. Liscio, Burning vai. Black, Burning vai. Black. Black. Ben ritrovati qui al DFD Showtime in compagnia dei Burning Black. Ditemi un po', dove sono gli altri? I componenti? Eh sì, in realtà ci qui manca qualcuno. Altri due componenti del gruppo, il nostro Ben, il cantante, e il nostro John, il chitarrista ritmico. E in questo momento non ci sono perché si stanno esibendo in un Unplugged al ben noto Festival della Coprofagia. E quindi festival della coprofagia. Sì, sì, sono ospiti fissi e quindi questa sera non possono essere qui con noi, per cui spieghiamo naturalmente agli ascoltatori il festival della coprofagia, di cosa si tratta. Hai presente il festival della cioccolata dove ci sono tutte le bancarelle con i vari tipi di cioccolata? La stessa cosa, solo che ha lo stesso colore ma non è cioccolata. Esatto. Vabbè, quello lì. Va benissimo. Comunque salutiamo Dan e John. Sapevo che erano dei golosoni, ma no, a sto punto. Buon gustaio. Pensavo fossero andati in Oriente, perché ciao Dan John. Sì. Era abbastanza. C'è un po' schifo sta battuta, vero? Sì, vabbè, sì, abbastanza. Però. No, va bene Diego. Volevamo parlare un po' delle attività del gruppo, da quando sono nati, un po' la storia, insomma, da quando sono nati, il primo album, i concerti. So che sto chiedendo troppe cose, però non cercheremo di fare un riassuntino. Sì, esatto. Infatti credo sia meglio dare spazio un po' più grande ai nostri amici che sono venuti a trovarci oggi. E intanto andiamo a farci una spesa, così ci prendiamo un po'. Va bene. Ci scariamo un po' la voce, drinkeggiandoci un po' di liquidi che a noi servono un po'. Avete la lista della spesa, l'avete fatta? Avete segnato il salame che bisogna comprare? Sì, sì, sì. Io c'ho scritto un salame, poi c'è il latte, poi. Okay. Jack Daniels sì, ovviamente sì. Io è l'immancabile Jäger. È l'immancabile Jäger, un po' di gazzosa per me, grazie. Il Jäger, esatto, il Jäger. Un po' di Jäger anche per me, per favore. Il Fräger e il Dieniezer. Esatto. Okay. Accompagniamo allora, intanto che ci accinguiamo al supermercato. Accinguici. Ci ascoltiamo questa Cristinona, che è un po' crostina. È un po' lei. Lei a grado. Aquileia. You gotta make a big impression. You gotta like what you do. I believe in a bottle, baby. You gotta work me the right way, honey. I'm a genie in a bottle, baby. Come on, man. The music's banging and the lights are low. It's one more dance and then we're good to go. Waiting for someone. Io credo che il mio carrello è a posto. Alla fine io mi sono preso i booster e me li sono infilati dentro le ascelle. Sì, sono a posto. Tu hai gonfiato le gomme del carrello, perché magari schioppano e vai fuori corsia. Oh, guarda che meloni. I meloni. Sempre il solito porco. Non guardarti i meloni. No, non dicevo a te, dicevo al porco, il maiale, le fettine di maiale che sono lì. Ah, sì. Hai capito? Voi ragazzi avete preso tutto? Io ho i condom, ce li ho tutti quanti. Benissimo. È giusto, la protezione prima di tutto, bravi ragazzi. Oh, bravi. Dove li hai trovati i condom? Li ho trovati nella terza corsia. Aspetta, lì con l'anello vibrante, hai dimenticato. No, ce l'ho. La terza corsia, quella di sorpasso, dici? Esattamente. Ah, okay. Devi sorpassare altri carrelli, però. Stai molto attento. Ah, in quella zona c'è il tutor. Attenzione alle vecchie. Io ho preso i pannolini. Bravo, per Luca. Sì, naturalmente. Grazie. Ma anche un po' per Diego, perché adesso non sarai più nella merda. No, io voglio pannoloni per te. Io voglio quello con le ali. Voglio quello con le ali. Ah, sì, dai, perché così no, dopo sai, va via, scappa, si muove. No, dillo che così ti fa volare. Oh, è vero. Ma allora vieni qui. Tanzara. Aia. Allora prepariamoci bene tutte le nostre cornie e ci sentiamo tra qualche minuto. Se vuoi dare gli appuntamenti, tutte le varie coordinate, tutto quanto, Dennis? Dove scovarci? Radio San Donato 102 200 0421 560993 4, finale per il fax. Questo era il telefono www.radiosandona.it. Questo è per ascoltarci in web radio. Ciao a tutti, a dopo. SMS 348 416 2771, DFD team 360 in parole e DFD 360 @yahoo.it. Ciao ragazzi, dopo ci vediamo. Ciao. È arrivato il treno numero 102 200 delle ore 20, proveniente da Radio San Donà e diretto dentro le vostre radio. Attenzione, L'ascolto del programma è consigliabile ad un pubblico minorato. Grazie. Porca picchita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cape di I love you, papà l'americano. Buongiorno, buonanotte, buon bidea a tutti quanti e salve, ben ritrovati. Questa è TFD Team 360, l'informazione divertita, qui direttamente con Tufalo Americano. E questa sera siamo in compagnia, naturalmente, dei nostri. Siamo ancora in compagnia di Diego, purtroppo. Sì, ma è arrivato. È arrivata la routine. No, è arrivata. È arrivata lei. È arrivata lei. Lei. Sono la nonna progressi macchina. È lei. No. È proprio lei. È arrivata. Amici Burning Black, avete un fucile? Macchina. Mio malgrado no. Mosso cazzi vostri. Sono arrivata con il gruppo di quando ero una teenager. Lei, scusi nonna Fregolino, voi siete stata pure teenager? Cioè, siete stata pure teenager? Tutti insieme, non guardate i gesti che fa. Tutti insieme, fate come me, mettetemi le mani sul capezzo, le vado a te. No, nonna, per cortesia. Ero ancora quando ero in voga. Abbiamo degli ospiti. Per cortesia. Buonasera. Ma nonna Fregolina, è vero che voi siete stata anche DJ in passato? Sì, io ho fatto anche la vocalist. E perché non ha continuato a fare la vocalist invece di venire qua? Perché poi mi sono data alla cucina. Mi sono data alla pazza gioia di cucinare delle purtroppo cose. Purtroppo salutiamo naturalmente le famiglie delle persone che sono purtroppo passate a miglior vita per aver assaggiato la cucina di nonna Fregolina. Salutiamo loro e soprattutto nonna, le piace l'heavy metal? Io sono stata la fondatrice dell'heavy metal. Sì, perché io negli anni 50, diciamo, ho incominciato con la musica swing. E poi sono passato negli anni 70, e là sono stata un po' figlia dei fiori. E anche figlia di qualcos'altro. E poi negli anni 80 ho cambiato un attimo, 80-90, sono diventata una tecnoide. E invece no, perché, no, perché oggi ne approfittiamo e la scarichiamo ai Burning Black. Beh, infatti ho visto questi bei tre giovani maschioni. Noi adesso ci andiamo a bere una gazzosa, io e Diego, e io voi adesso vi arrangiate con una fegolina mosocazzi vostra. E io mi divertirò un po' con voi questa sera, ragazzi, perché ho una bellissima ricetta per voi. Ho una ricetta che questa sera si intitola pasta e fagioli riscaldata. Che buona che deve. Volevo rimanere. Mi scusi, Nonna Fregolina. Eric, ti piace la pasta e fagioli? Ma sì, diciamo di sì. E a te? Quella riscaldata non lo so, sinceramente. Cioè, a te hai già la cotica dentro la pasta e fagioli, ti può piacere? La cotica. Ottima, però vorrei capire com'è che viene riscaldata. Beh, intanto prima, ragazzoni, mi riscaldo io con un po' di tête-à-tête. Lo temevo, infatti. Esatto. Però adesso vi do la ricetta. Allora, ingredienti per 4 persone, giusto, perché sono io e voi tre. Beh, in questo caso. Che gioia. Allora, Luca, stai attento che ti riguarda. Questo amore è una camera gas. Oh, mio. 4 porzioni di pasta e fagioli cucinata il giorno prima. Che ricetta bella hai fatto, scusa. È già pronta. Thank you at the dick, come direbbero i miei amici, grazie. Perché deve fare effetto. Poi 60 grammi di grasso di prosciutto. Ah, pensavo del grasso suo, non la fregolina, perché lei è un po' abbondantella. Giusto per stare leggeri, no? Il grasso buono sta nella nonna fregolina. Sì, ok. Poi una scodella di brodo. Il brodino. Brodo fatto da me, ragazzi. Vorrei sapere come è stato fatto questo brodo. Beh, ve lo racconterò la prossima volta. No, di carne, vero? Sicuramente. Chissà che carne. Ma tu mi stai lusingando. Ma nonna, so che a lei piacciono le carote. Cioè, la carotina. Io le carote le infilo sempre. Ma dove? Nel grattugia, esatto. Luca, penso questa sia per te. Ecco, per te, perché lui è un venditore. In realtà è un venditore di grattugie per carote per nonna fregolina. Esatto. Unico cliente, infatti, distribuisce in esclusiva. Prego, continui pure con la sua schifo. Un poco di maggiorana e santoreggia. Santoreggia anche. Lei è maggiorata. Maggiorato si fa di marijuana, non ho capito. No, lei è maggiorata. E poi, dulcis in finis, 4 cucchiai di olio di vaselina. Olio vergine, extra vergine, mi raccomando, ragazzi. So che non è lei. No, ma è di segno vergine, credo. Insomma, vi racconto qual è il procedimento, d'accordo? No. Mettete le due erbe aromatiche in un piccolo sacchetto di tela, chiudendolo con un filo. Il filo ve lo do io, va bene? Rimettete al fuoco la pasta e i fagioli, immergetevi anche insieme a me il sacchettino con le erbe e far riscaldare a fiamma bassissima. Un bel bagno con una fregolina e la pasta e fagioli. Scaldate l'olio in un tegamino, unirvi il grasso di prosciutto, fatelo sciogliere, quindi versate il tutto nella minestra, aggiungendo anche a poco il brodo. Che porcheria. Mamma mia, che schifo. Eliminate. Serve a me dopo. Eliminate il sacchetto delle erbe, distribuire la pasta e i fagioli nelle fondine e servire. Questa minestra è ottima anche fredda. Accompagnatemi con Chianti e dei Colli Pisani e Sangiovese di Romagna. Accompagnatemi, ha detto. Esatto. Cioè, accompagnatemi, cioè, ragazzi, esatto, dovete ragazzi, accompagnarla. Sì, con il perché vino. Io ho bisogno di un buon vinello che sia di casa. Soprattutto, ecco, serve, ragazzi, a voi il vinello per andare a cena con questa, ragazzi. Ma tanti litri vi servono il vinello. Cioè, questo piatto mi sembra ottimo per la prossima festa di coprofagia. Sì, esatto, lì è una meraviglia. È vero. Non fa una piega. Tu mi stai veramente lusingando, ragazzi. Come ti chiami, bel ragazzo, Will. Will? Mi piace questo tuo barbino così incolto. Ma che cos'è quella cosa che hai lì nel mento? Che cos'è quella cosa? Che cos'è? Non si può dire. È un piercing? È riuscita a dirlo lei? È un piercing. Se ce la facciamo. Te lo scioccherei tutto quel piercing. Per favore, non la fregolina, insomma, un po' di contegno. Siamo in radio, ci ascoltano. Ajay, non ti toccare. Esatto. capisco, no, capisco. In realtà sono un po' invidioso perché la nonna ha già adocchiato. Ehi, Giovincello, non preoccupatevi. È anche quello più vicino alla sua fascia di età. Tu sappi che il cappello lungo, il cappello soprattutto, parecchio. Non sono l'unico. Ricordate che con una fregolina ce n'è abbastanza per tutti. Ci sentiamo dopo, ragazzi. Intanto io me li vado un po' a spopacciolare. Burning un po' Black qui con noi, Seasons don't fear the reaper, nor do the wind, the sun or the rain. We can be like they are. Come on, baby, don't fear the reaper. Baby, take my hand. Don't fear the reaper. We'll be able to fly. Don't fear the reaper. Baby, I'm your man. La la la la la. Tornati a DFD Team 360, l'informazione divertita dopo questa bellissima e simpaticissima canzone di Blue Oyster Cult, John Field Reaper. Sentite il mio inglese com'è perfetto, sentiamo in base naturalmente il Zeppelin, e siamo qui di nuovo con i nostri amici Burning Black. Ben ritrovati, ben ritornati e bravi, bravissimi, avete inteso, avete capito. Allora, poc'anzi prima della nostra pausa, vi avevo proposto, insomma, di parlarci un po' di voi, dell'attività del gruppo, un po' la vostra storia, i vostri album, parlare un po' anche dei componenti che purtroppo questa sera non sono potuti intervenire, quale ruolo svolgono, ala, centravanti, attaccante, portiere, insomma, ecco, qualcosa di simile. Prego, diamo la parola naturalmente ai nostri ospiti e precisamente a AJ, prego. Ciao, allora, due parole riguardo ai primi passi del gruppo. Il gruppo è nato alla fine del 2003, a iniziativa proprio di Dan e John, i nostri amici cinesi. I nostri amici cinesi che non sono presenti in questo momento, poiché dall'altra parte del mondo. E con l'intenzione di suonare un heavy metal puro e senza alcuna contaminazione, integralista se vogliamo. Il gruppo ha mosso quindi i suoi primi passi fra il 2004 e il 2006, registrando un paio di demo che sono stati accolti molto bene, e negli anni successivi noi tre in momenti diversi siamo entrati nel gruppo. Ecco, appunto, narrateci un po' questa vostra osmosi all'interno del gruppo. Sì, io sono arrivato nel 2005 e Will è arrivato alla fine del 2006, mentre Eric è l'ultimo arrivato, è arrivato l'anno scorso, e con questo si può dire che la formazione sia finalmente completa. Quello che è venuto per ultimo, quindi. Esatto, che non sempre è una cosa negativa. Esatto, esatto. Sì, che comunque sì. So che Eric c'ha anche un altro progetto parallelo, no? Ma sì, diciamo di sì, un progetto che ha sonorità ben diversa da questo. Sì. vari progetti, varia musica, mettiamola così. Ah, ok, non è che hai progetti tipo del cinema o cose simili, no? Sì, progetti di case oppure varie cose, anche, insomma. Esatto, esatto. Sì, sono un architetto. Scusa se mi soffermo sul punto di prima, ma visto che sei venuto per ultimo, quali sono state le sensazioni e come ti sei trovato all'interno del gruppo? Devo dire che fin da subito il gruppo è stato molto accogliente in tutti i sensi. Mi ha accolto benissimo, sì, tutti i sensi. Ogni mio senso è stato ben appagato fin dal primo momento. Sì, ma sì. Luca, cosa ti appaga? Ma diciamo che Luca è una persona molto morbida e ci si sta bene, soprattutto in camper. Sì. È una persona con cui passerei diverse ore nel camper. Comunque, cambiare discorso nell'ambito dei sensi. Cioè, parliamo seriamente. Per quanto riguarda la vostra attività concertistica del passato e future? Allora, per quanto riguarda l'attività concertistica, possiamo dire finora di esserci tolti qualche buona soddisfazione, perché il nostro primo evento di grande importanza è stato nel 2007, quando abbiamo aperto ai concerti italiani di Udo, ex cantante degli Accept, e dei Primal Fear. Ancora non avevamo un album fuori, quindi è stata un'esperienza incredibile. Poi per il lancio del nostro primo album, Prisoners of Steel, del 2008, abbiamo avuto l'occasione di fare un tour europeo con i Circle to Circle dell'ex cantante dei Savatage, Zach Stevens, che ci ha portato in tutta l'Europa orientale. Naturalmente è stata un'esperienza indimenticabile. Abbiamo avuto qualche altra apertura importante come Linea 77, Volbeat, che altro, Rage se non sbaglio, Whiteskull, naturalmente i grandissimi Whiteskull che ricordiamo. Però, come direbbe un mio vecchio commilitone, mica pizza e fichi, voglio dire, cioè... Ragazzi, per ci quanto sono da fare, sono bravi ragazzi. Per quanto riguarda Mechanical, che avete da dire? Allora, per quanto riguarda Mechanical, diciamo che è un passo avanti nell'evoluzione del gruppo. Infatti le nostre basi rimangono ben solide sull'heavy metal. Questo album ci porta più influenze del power melodico americano, il grande power degli anni 80, e con alcuni pezzi anche diciamo più orecchiabili, senza naturalmente snaturare il nostro sound. Sì, sicuramente non sono pezzi da supermercato. non propriamente, comunque hanno raccolto l'attenzione dell'etichetta tedesca Limb Music, che è abbastanza nota per aver lanciato gruppi come Rhapsody e Angra. Che ci ha fatto firmare un contratto per la distribuzione di questo secondo album, che è uscito a novembre dell'anno scorso. Perfetto, quindi Mechanical naturalmente è l'ultimo album che avete realizzato. Sì, in questo momento è il secondo e l'ultimo. Il secondo e l'ultimo, speriamo, naturalmente vi auguriamo che sia anche il secondo, non ultimo, ma per ora diciamo, cioè, vi auguriamo di avere naturalmente una... fortuna, naturalmente. Volevo fare una domanda: qual è la vostra canzone preferita di questi due album che avete creato? Avete una canzone preferita o... cioè quella che vi personalizza un po' di più, che vi sta un po' nel vostro cuore? Allora, per quanto mi riguarda, sono molto legato, sia come ascolto sia per suonarle dal vivo, ai due pezzi più orecchiabili dell'album, diciamo, che sono Purgatory Child e Secrets to Hide. Che forse sono quelli che ci ascolteremo adesso. Ma va? E allora, buon ascolto qui su Radio Sendonà 102.200, la frequenza. Il DFD Team vi ringrazia, a voi prima di tutto, per essere stati e per averci onorato per questa vostra presenza. E grazie a voi per averci ospitato nella vostra trasmissione. Grazie. Shut up! Bene, ritrovati qui, ben ritrovati qui con i Burning Black. E, il tempo stringe, abbiamo pochissimo tempo, ci stiamo per salutare. Ultima domanda: singolo, live e studio. Allora comincio io. Uno dei prossimi obiettivi del gruppo è autoprodurre un singolo preso proprio da questo album, che distribuiremo nei canali più appropriati, tra cui voi ovviamente. Giusto. Giustissimo. Per me no, per te. Perché anche se quest'album è già uscito da qualche mese, siamo sicuri che avrà ancora molto da dare sul piano promozionale e anche sul piano dei concerti, per cui ci stiamo organizzando per la prossima stagione. Per quanto riguarda la... so che state facendo uno studio nuovo, non so. Sì, esatto. Diciamo che l'ho costruito io praticamente. Sì? Sì, questo studio. Mi ha tolto 6 mesi di vita sostanzialmente. Niente, ci siamo fatti su questo studio autoprodotto e spesato soprattutto da loro. Io ho lavorato. Comunque dai, è venuto fuori un bel lavoretto, adesso potremo sfruttarlo al meglio per registrare i nostri pezzi. Ma solo per voi o anche? Per ora solo per noi. Più avanti probabilmente sarà anche per altri. E per qualcuno che fosse interessato, come può prendere contatto? Chiami eventualmente AJ, qualunque di noi. E comunque coglierei anche l'occasione per lasciarvi i contatti del gruppo. Naturalmente ci potete trovare su internet a www.burningblack.com. Scusa, non ho capito, me lo stavo segnando con la matita nel culetto, che così. Ah, giusto. Io me lo stavo segnando col sangue io, ma burningblack.com, ci trovate anche su MySpace. Fai la firma sul culetto, per favore. Ah, è quella dopo in privato. Scusa, sono rimasto sulla prima V. Va bene, comunque anche su MySpace, a myspace.com/burningblackband, e naturalmente anche su Facebook, visto che adesso va tanto di moda. Ebbene cari amici, naturalmente siamo giunti qui questa sera con voi e io ho una domanda da fare a uno di voi, a chi mi vuole rispondere naturalmente. Allora, per te la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? Ma io penso che la vita sia un sogno, e che quello che noi facciamo, tutto quello che noi facciamo con questa band, sia fondamentalmente coltivare un sogno, ecco, diciamo questo. Noi lo facciamo con gran fatica, e però ci crediamo davvero tanto. Eh sì, d'altra parte è così. D'altra parte è così. Sì, sì, è la classica frase che si usa naturalmente. Sì, per chiudere la trasmissione, ci stava bene. Sì, no, infatti. No, è un'ultimissima domanda, naturalmente, a chi vuole rispondere. Anzi, non la faccio io la domanda, ma la farete voi. Si faccia una domanda, si dia una risposta. Ma la domanda che mi faccio è se mi piacerebbe tornare in tour col nostro Diego. E la risposta è assolutamente sì. Allora abbiamo capito che questo... Sì, anche per me. Abbiamo capito che sono pazzi. Ragazzi, sì. Dopo gli do un bacetto, li manderò ad una fregolina. Che devo fare? No, siamo riusciti a salvarci, per fortuna. Naturalmente, a parte tutte naturalmente questa cinematica, questi scherzini, diamo naturalmente un grande saluto ai nostri amici Burning Black, un grande in bocca al lupo per tutto il loro futuro artistico. E Diego deve aggiungere qualcosa? Non deve aggiungere niente, Diego, naturalmente un caloroso saluto ai componenti. Grazie ragazzi, grazie a tutti, ciao, ragazzi. Buonanotte. Grazie, anche saluto anche i componenti che purtroppo questa sera non sono potuti intervenire perché sono dall'altro capo del mondo. Ciao Dan, ciao John. Ciao Gian Dong. Ciao, ciao ragazzi. E se ci volete introdurre l'ultima canzone da ascoltare qui su Radio Sanonà, questa è Purgatory Child. Yuhu! Yuhu!